Fatto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Nuovo picco per la disoccupazione, i senza lavoro sono 3 milioni e 400 mila. Intanto Bruxelles, come nelle attese, promuove la manovra, ma dice serve ancora un piccolo sforzo. Sono stanchino, così Beppe Grillo all'indomani delle due nuove espulsioni. Sceglie 5 vice sui quali gli iscritti sono chiamati a votare. Avranno tempo fino alle 19. Vaccini anti-influenzali, sono 3 le morti sospette, escluse relazioni con un'altra vittima registrata a Prato, nessun allarmismo, verifiche in corso, raccomandano tutti. Scende il prezzo del greggio, inizia lentamente a calare anche quello della benzina, listini in discesa pereni, mentre sul petrolio si combatte una battaglia politica che vede al centro sauditi, americani e russi. Un'altra tentata rapina ad un portavalori nel Salernitano, a Pagani, sparatoria tra i banditi e le guardie giurate, ci sono 3 feriti. Il Papa è atterrato in Turchia, le autorità avrebbero chiesto di vedere in anticipo i suoi discorsi, ottenendo un rifiuto. Incontrerà Erdogan e il Gran Muftì. La parabola discendente di Cesare Prandelli, dopo il fallimento con la nazionale, l'esonero ieri dal Galatasaray. Una buona giornata da Simone Spezia e bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Se volete, come sempre, ci potete contattare al 349-238-6666 durante la trasmissione con i vostri commenti e le vostre osservazioni, oppure scriverci a effettogiorno@radio24.it o ancora visitare la nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno. In apertura, dunque, come da titoli, i dati sulla disoccupazione che continua a crescere. Sentiamo il servizio. Il bicchiere può essere mezzo pieno o mezzo vuoto. Al Ministero del Lavoro lo vedono mezzo pieno. Nel terzo trimestre dell'anno, secondo i dati del Dicastero, i nuovi rapporti di lavoro a tempo indeterminato sono stati oltre 400.000, più 7,1% rispetto a un anno fa. In totale, le firme sono state apposte su quasi 2 milioni e mezzo di nuovi contratti, di poco inferiore il numero dei contratti che hanno invece cessato di esistere. Secondo il Ministero, questi numeri confermano che il decreto Poletti ha prodotto risultati positivi nel mercato del lavoro. Il bicchiere mezzo vuoto, invece, lo si vede nei dati Istat. A ottobre il tasso di disoccupazione è salito al 13,2%, massimo storico. Tra i giovani fra i 15 e i 24 anni supera il 43%. Alla base dell'aumento il calo dell'occupazione nel mese di ottobre e la flessione dell'inattività, il che vuol dire che più persone si sono messe alla ricerca di un impiego. Considerando il terzo trimestre, che coincide con l'estate, l'occupazione è cresciuta, ma va tenuto conto della stagionalità di alcuni lavori. Giorno di numeri sulla disoccupazione anche in Europa. Stabile il tasso sia nell'Eurozona sia nell'Europa 28. Se la passano meglio in Germania e in Austria, peggio in Grecia e Spagna, ma la palma del maggiore incremento se la giudica l'Italia. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E su questi dati, soprattutto su quelli europei, torneremo più avanti in Europa 24, così come in Europa 24 naturalmente in onda alle 14 parleremo di quello che è successo oggi per quanto riguarda la Commissione Europea, che ha dato il suo via libera alla manovra italiana, però con qualche osservazione. Bruxelles ha deciso di chiudere un occhio su Italia, Francia e Belgio. Non hanno rispettato il patto di stabilità, ma hanno avviato le riforme. Il countdown quindi comincia ora. L'obiettivo è marzo. 3 mesi nei quali le riforme avviate devono arrivare a compimento, altrimenti tutte le opzioni procedurali restano aperte per la prossima primavera. Così ha chiarito il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, in conferenza stampa. Se i 3 paesi non manterranno gli impegni su conti e riforme, la Commissione proseguirà con le procedure di infrazione. Sulla stessa linea il commissario europeo agli affari economici Pierre Moscovici, che chiede espressamente all'Italia uno sforzo in più e aggiunge: in early 2015, to strengthen the link between structural reforms. Ad inizio del 2015 la Commissione fornirà chiarimenti sul miglior uso della flessibilità presente già nel patto di stabilità e crescita, ha detto Moscovici, il quale ha anche ammonito la Germania. Dato l'elevato surplus, il livello dei salari e dell'inflazione, Berlino, ha detto, ha margine di manovra per aumentare gli investimenti pubblici. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E tanto sui dati sulla disoccupazione quanto su quello che è successo a Bruxelles ci sono parecchie reazioni, le sentiamo in diretta col nostro Vincenzo Miglietta. Vincenzo, buongiorno, ciao. Sì, buongiorno. Partiamo allora dalla disoccupazione e dal governo. Questi dati ci preoccupano, dice allora il Presidente del Consiglio Renzi, che però rivendica il dato degli occupati in realtà sta crescendo. In Italia più persone lavorano rispetto a quando si è insediato l'esecutivo, ma per riuscire a recuperare c'è ancora tanto da fare. Non bisogna, aggiunge Renzi da Catania, negare i problemi ma neanche guardare il bicchiere mezzo vuoto. Le chiacchiere stanno a zero, i posti di lavoro aumentano, commenta il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Delrio dal Ministero del Lavoro, lo abbiamo ascoltato. Indicano intanto 400.000 nuovi posti fissi. I commenti ora sono dati che non mi sorprendono, dice il presidente di Confindustria Squinzi, ma su Palazzo Chigi puntano il dito le opposizioni, la minoranza PD e i sindacati. Record storico per la disoccupazione, dice Toti, Forza Italia, ma non doveva essere la svolta buona. Poletti ridicolo, per Renzi doppia bocciatura, commenta Brunetta. Siamo sull'orlo del baratro, attaccano da Sinistra Ecologia e Libertà. Siamo al collasso, dice la UIL. Altro capitolo, le decisione della Commissione europea sui conti pubblici italiani, il paese ha un alto debito ma anche la possibilità di mettere in moto un meccanismo virtuoso, spiega il ministro dell'economia Padoan. È tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta per questi aggiornamenti. Abbiamo parlato dei dati negativi, di questa mattina ci sono anche dei dati positivi, è l'andamento dello spread, il calo del rendimento dei titoli di Stato, che però non traggono origine dalle vicende italiane ma più che altro dalla Banca Centrale Europea. E così Moria Longo del Sole 24 Ore. Sì, è così. I rendimenti dei titoli di Stato italiani stanno scendendo da moltissimo tempo, negli ultimi mesi sono scesi ulteriormente, adesso ormai sono i decennali, sono vicinissimi alla soglia del 2%. Questo perché i mercati scommettono che la Banca Centrale Europea, e Mario Draghi l'ha lasciato intendere più volte, nel 2015 possa avviare quello che viene chiamato quantitative easing. In parole povere, possa iniziare a comprare sul mercato titoli di Stato stampando moneta, quindi con liquidità nuova. Questa scommessa dei mercati ovviamente fa scendere i rendimenti, perché tutti gli investitori, immaginando che presto o tardi arriverà la Banca Centrale Europea a comprare in massa i titoli di Stato, gli investitori cercano di anticipare e comprano prima, quindi questo sta facendo scendere i rendimenti. Un beneficio quindi per lo Stato sicuramente c'è dal punto di vista proprio del tasso di interesse che paghiamo sul debito pubblico. Che questa cosa poi porti reali effettivi benefici sull'economia reale, che poi è il vero interesse di tutti, su questo ci sono grandi punti interrogativi. Grazie a Moria Longo del Sole 24 Ore per questa sua rapida ed efficace analisi. Poi c'è anche la questione del crollo del prezzo del greggio, che sta spingendo finalmente al ribasso, anche se lievemente, quello dei carburanti. Stando alle rilevazioni di Quotidiano Energia, l'Eni ha tagliato di 1,5 centesimi al litro i prezzi sia della benzina che del diesel. Del calo del prezzo del greggio e di tutte le vicende geopolitiche che ci sono dietro, per cercare di capirne di più, torneremo a parlare più avanti. Chiudiamo per il momento la pagina economica e passiamo alla cronaca. Innanzitutto con la vicenda dei vaccini. C'è una quarta persona che stamattina si è detto che sarebbe morta a causa delle conseguenze di questo vaccino, ma sono stati esclusi sostanzialmente collegamenti. Massima cautela naturalmente, perché non è assolutamente provato che ci sia proprio il vaccino all'origine di queste morti. Comunque sentiamo il servizio. Gli italiani sono preoccupati. 3 persone tra i 68 e gli 87 anni sono decedute dopo la somministrazione del vaccino antinfluenzale Fluad. 3 casi di morti sospette, dunque avvenute intorno a metà novembre in Sicilia e Molise. Una segnalazione anche questa mattina a Prato, allarme che però sembrerebbe già rientrato. Chi è in casa confezioni con i numeri 142701 e 143301 contatti il proprio medico, ha avvertito l'AIFA, che per sicurezza ha bloccato i 2 lotti sospetti. L'Istituto Superiore di Sanità ha dato il via alle indagini con l'obiettivo di concludere gli accertamenti nel più breve tempo possibile, come ci spiega il commissario Walter Ricciardi. Noi abbiamo i primi risultati di un certo tipo di analisi, per esempio quelle tossicologiche, entro una settimana, mentre invece quelle sulla sterilità è entro una ventina di giorni, quindi il tutto dovrebbe completarsi entro un mese da oggi. Le segnalazioni sono state tempestive, ha detto il commissario, e il consiglio di continuare a fare i vaccini. Intanto in Liguria, nel Savonese sono state sospese le vaccinazioni con i lotti incriminati, non presenti invece in Piemonte e Lombardia. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E più avanti alle 13.30, dopo le 13.30, torneremo a parlare di tutto questo con Luca Pani, il direttore dell'Agenzia Italiana del Farmaco, per capire a che punto siamo con le analisi. Restiamo sulla cronaca e andiamo in provincia di Salerno per una rapina ad un portavalori. Carmelo Prestisimone, buongiorno. Buongiorno, esatto, tre persone, tre pedoni sono rimasti feriti in una rapina nel centro di Pagani, siamo nel Salernitano dove c'è un ufficio postale e una filiale anche del Banco di Napoli. Alcuni malviventi hanno tentato di rapinare un furgone portavalori, come dicevi tu, diretto all'ufficio postale. C'è stato un conflitto a fuoco con le guardie giurate che erano sul mezzo. Le condizioni dei feriti non dovrebbero essere gravi. Un giovane, il figlio di un orefice che ha il negozio in zona, è stato ferito al volto, una donna colpita alla gamba e un'altra persona ferita di striscio. È stato immediato l'intervento delle ambulanze, dei carabinieri che stanno indagando, la rapina è stata sventata. A Pagani questa sparatoria ha ricordato la tragedia in cui perse la vita il tenente dei carabinieri Marco Pittoni, ucciso nello stesso ufficio postale dove era diretto il portavalori che è stato assaltato oggi. I banditi sono riusciti a fuggire, ma uno potrebbe essere ferito. I carabinieri stanno cercando di individuare i malviventi anche con l'aiuto di un elicottero. È tutto, a te Simone. Grazie a Carmelo Prestisimone per questi aggiornamenti e veniamo alla politica con le vicende del Movimento 5 Stelle al centro di tutto, il nuovo post sul blog di Grillo nel quale il leader sembra fare un passo indietro e lanciare 5 probabili, possibili successori o vice. Alessandra Schepisi, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. Ore davvero concitate nel movimento, prima le espulsioni, poi le polemiche feroci culminate in una vera e propria rivolta sul web, infine quello che, come dicevi tu, sembra un passo indietro di Beppe Grillo con l'annuncio di un collegio di garanti per ampliare la struttura di rappresentanze per affiancarlo nelle decisioni più importanti. Ma procediamo con ordine. Ieri dunque la cacciata dei deputati Palapini e Massimo Martini, re secondo il leader di non aver rendicontato le spese sostenute, di non aver in pratica versato parte dell'indennità nel fondo per le piccole e medie imprese, e accusa respinta dai diretti interessati con tanto di foto dei bonifici, un'espulsione che sarebbe avvenuta con, che è venuta con votazione online ma secondo molti in violazione del regolamento, di cui la reazione di molti, anche di coloro che finora non erano nella cosiddetta pattuglia dei dissidenti, mentre si parla di almeno 15 parlamentari pronti alla scissione. Di poco fa infine, come si diceva, l'annuncio di Grillo che sul suo blog propone una rosa di 5 colonnelli che lo potrebbe affiancare: Alessandro Di Battista, Luigi Di Maio, Roberto Fico, Carla Ruocco e Carlo Sibilia. Io, il camper e il blog non bastiamo più, scrive il guru. Sono un po' stanchino, come direbbe Forrest Gump, e chiede di esprimere un voto su questa proposta fino alle 19 di oggi. Dunque un modo per rendere meno centralizzata la gestione del movimento, forse anche di placare gli animi, staremo a vedere. Da Roma è tutto. Grazie Alessandra Schepisi, più avanti torneremo a parlare anche di questo, ci collegheremo con Paola Pin, una delle due persone insieme a Massimo Martini espulsa dal Movimento 5 Stelle. Iniziata la visita del Papa in Turchia, si trova là inviato del Sole 24 Ore Carlo Marroni. Buongiorno Carlo, che cosa dobbiamo attenderci? Che cosa dobbiamo attenderci, Carlo, da questa visita del Papa, al di là poi di delle indiscrezioni di queste ultime ore che avrebbero voluto un governo turco che ha chiesto in anticipo i discorsi del Papa e il Vaticano si sarebbe rifiutato? Prego Carlo. Ma sì, questa cosa dei discorsi è un tema che è ricorrente, diciamo che Papa non è nuovo, diciamo così, a fare discorsi punti delicati, e quindi non è che ci sia da aspettarci incidenti diplomatici di nessun tipo. In questo momento è al mausoleo del padre della patria della Turchia moderna, mausoleo di Ataturk, troppo al palazzo presidenziale a incontrare il presidente Erdogan, il famoso palazzo appena inaugurato che è un mastodonte moderno, e i discorsi saranno tutti oggi molto politici, incentrati verosimilmente direttamente sulle questioni appunto che riguardano la Turchia direttamente dal punto di vista del dialogo interreligioso e soprattutto della convivenza tra le minoranze religiose, i profughi che sono circa 1,5 milioni, e naturalmente il tema del califfato che proprio ai confini con la Turchia sta consumando queste stragi terribili di cui raccontiamo da anni. E il Papa presumibilmente chiederà alla Turchia e a tutto il mondo diciamo di intervenire a favore di un intervento umanitario. Questo è un po' il tema centrale della giornata di oggi, che è molto politica. Domani a Istanbul più su questioni religiose. Grazie a Carlo Marroni per questi aggiornamenti dalla Turchia. E arriva dalla Turchia notizia di tutt'altro tipo, ossia l'esonero di Cesare Prandelli. Ha solo una consolazione, che il 2014 sta per finire. Cesare Prandelli, 57 anni, è stato esonerato dalla squadra turca del Galatasaray. E così, 5 mesi dopo il flop del mondiale, Prandelli si trova di nuovo al centro di un fallimento, toccando con mano un vecchio detto del calcio, che sei bravo solo quando vinci. Un po' come succede a Fabio Capello, che non riceve più lo stipendio dalla Federazione Russa. Dopo il flop della nazionale, molti lo hanno invidiato, quel sapersi smarcare e andare subito verso una nuova avventura. Ora gli stessi, dopo l'esonero, lo trattano come un ingenuo caduto in trappola. Dicono che Istanbul è un inferno, che quella è una società allo sbando, piena di debiti, e che Mancini, più furbo, aveva lasciato al momento giusto. Per carità, ci sta tutto. Fare solo un punto in 5 partite di Champions di certo non aiuta. Però Prandelli ha anche ragione a dire che lascia una squadra seconda in classifica, a un punto dalla prima. In realtà il suo destino era segnato, come spesso succede quando un allenatore perde appeal e laurea di vincente. Perdente è anche quel suo messaggio sottotraccia che lo aveva sostenuto alla guida della nazionale, che un allenatore è anche un bravo uomo, che capisce, che ti ascolta, che ti dà una pacca sulla spalla quando vai a fondo. Ora una pacca sulla spalla serve a Cesare, per ridare a Cesare quel che è di Cesare. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Notizia di poco fa: sarebbe grave uno dei passanti ferito durante la rapina di un portavalori a Pagani in provincia di Salerno. Avrebbe ricevuto un colpo durante la sparatoria tra le guardie giurate e i banditi, avrebbe ricevuto un colpo in faccia. Nuovo picco per la disoccupazione, senza lavoro sono 3 milioni e 400 mila. Intanto Bruxelles, come nelle attese, promuove la manovra, ma dice serve ancora un piccolo sforzo. Sono stanchino, parole di Beppe Grillo all'indomani delle due nuove espulsioni. Intanto sceglie 5 vice sui quali gli iscritti sono chiamati a votare, avranno tempo fino alle 19. Vaccini antinfluenzali sono al momento 3, le morti sospette sono escluse, relazioni con un'altra vittima registrata a Prato, nessun allarmismo raccomandano tutti, le verifiche sono in corso. Il Papa è atterrato in Turchia, le autorità avrebbero chiesto di vedere in anticipo i suoi discorsi, ottenendo un rifiuto. E prima di passare a parlare del Movimento 5 Stelle, del prezzo del petrolio e poi naturalmente ancora della vicenda dei vaccini, parliamo ancora di politica e del Partito Democratico. Il nostro Daniele Biacchesi nella sua inchiesta di oggi ci dice che sta nascendo qualcosa a sinistra del PD e si sta anche strutturando qualcosa. Esiste uno spazio politico a sinistra di Matteo Renzi? Se ci si dovesse basare sui meri numeri parlamentari, si tratta di una percentuale certamente bassa ma significativa, perché conto il Jobs Act del governo alla Camera, 29 deputati del PD, 37 di SEL sono usciti dall'aula, e al Senato, per evitare problemi, l'esecutivo dovrà porre la fiducia sul provvedimento. Diverso invece il ragionamento sulla base elettorale. I sondaggisti calcolano che a sinistra di Renzi vi sia un mercato politico che oscilla tra l'8 e il 12%. In questo momento è occupato da molto meno delle sue potenzialità, in quanto l'opposizione interna resta ancora nel partito di Renzi, SEL è data intorno al 3%, e non c'è un'alternativa strutturata, cioè un partito, un movimento oppure una federazione. Già, una federazione. Il percorso ha avuto un'accelerazione nelle ultime settimane, il cuore del progetto gravita in intorno a Milano. Il primo appuntamento pubblico si è tenuto nel capoluogo lombardo il 13 novembre alla vigilia dello sciopero della FIOM CGIL. In una stipata sala dei congressi della provincia di Via Coridoni, Vendola, Civati, Fassina e Rota hanno provato a capire qual è l'umore della base del PD e di SEL per aprire, dicono loro, una nuova stagione politica. Le riunioni e gli incontri sono proseguiti in segreto ogni giorno. Il gruppo ha dapprima delineato una strategia parlamentare contro il Jobs Act e la legge elettorale, poi ha avviato un percorso in termini di struttura politica e la formula che ne sarebbe uscita in queste ore si chiama federazione. L'appuntamento è a Milano dal 23 al 25 gennaio al Museo della Permanente e lì si dovrebbe vedere davvero se il sogno di Vendola e di Civati potrà camminare con gambe robuste oppure l'alternativa Renzi si ridurrà invece in un minestrone elettorale senza progetto e senza pensiero lungo. Fabiana Dadone, vice capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno a lei. La chiamiamo per capire un attimo come funziona questa nuova iniziativa di Grillo. Insomma, gli iscritti avranno tempo fino alle 19 per votare 5 persone, segnatamente Alessandro Di Battista, Luigi Di Maio, c'è Fico se non sbaglio, c'è Sibilia, mi ricordi chi è la quinta persona? Carla Ruocco. C'è anche Carla Ruocco. Per votare queste 5 persone che di fatto, da quel che abbiamo capito, saranno una sorta di vice di Grillo? Sì, una sorta, diciamo così, sì. Ma guardi, il bello di questo passaggio è che è un'evoluzione naturale del nostro movimento. Si era da sempre detto che prima o poi avrebbe dovuto camminare con le proprie gambe il movimento e quindi si è proposta questa votazione, si è sottoposta alla rete. Senta, c'è già qualche commento sul blog di gente che dice, ma insomma... di fatto Beppe li hai scelti tu e poi ci hai detto votate questi, votate sì o no, insomma è un referendum su una scelta effettuata dallo stesso Grillo. Ma il problema è che si guarda sempre il dito e non la luna che si indica. Noi abbiamo tracciato un percorso che è unico nel suo genere, proponiamo una democrazia diretta, un'evoluzione di un partito, di un movimento che non è nemmeno un partito, non ha una struttura verticistica, che tende a diventare qualcosa di nuovo, si evolve costantemente e spesso capita che le persone guardino il dito dicendo ma i nomi sono stati scelti così, ma il problema non è il punto, non sono i nomi quanto il passaggio epocale che sta avvenendo in queste ore, questo è epocale in che senso, Dadone? Perché prima c'era soltanto Beppe, invece oggi ci si chiede agli attivisti, alla rete, a quelli che ci hanno votato, ma voi volete che ci siano altre persone che affianchino Beppe in questo ruolo? Visto che ci sono state anche, insomma non ci possiamo nascondere dietro un dito in questo periodo, alcune critiche in merito, Beppe non va bene, Beppe da solo non funziona così, lui ha pensato a questa evoluzione e l'ha sottoposta alla rete, in realtà è perfettamente in linea con quello che abbiamo sempre predicato, la democrazia diretta. Per quanto riguarda le espulsioni, lei come la vede queste espulsioni di Artini e della Pinna? Cioè, loro dicono guardate, i rendiconti sono questi, i bonifici li abbiamo fatti, in realtà è un'idea di espulsione dettata probabilmente da una divergenza in linea politica o no? No, assolutamente. Il punto della rendicontazione è un punto che è noto da quando ci eravamo iscritti alle parlamentari, quindi ancora prima che fosse selezionata la lista. Si era votato il codice di comportamento, bisognava rendicontare su tirendiconto.it e le restituzioni andavano versate in un fondo che sarebbe stato deciso dall'Assemblea. È stato creato il fondo delle piccole e medie imprese, la decisione è stata presa a livello assembleare, solo loro hanno deciso di rendicontarne su un altro loro file. Hanno restituito importi totalmente differenti dagli altri, dandoli sul territorio, di fatto attivando peraltro col rischio, anzi diciamo, di attivare quello spiacevole rischio del voto di scambio, perché quello è il problema. Anche noi avevamo pensato che sarebbe stato più fruttuoso investire sui territori, perché chiaramente le persone vedono che i soldi arrivano, però il rischio che si innesca è poi quello, cioè si vota soltanto noi perché noi investiamo sul territorio. Comunque io, se posso, la lascio parlare. Mi spiace che tutti chiedano sempre di quei due, in questo caso comunque degli altri che non hanno rendicontato, quando ci sono altri 140 deputati che hanno rendicontato non stiamo chiedendo i rendiconti, stiamo chiedendo delle espulsioni, cioè, quindi non ci interessa dei rendiconti. La questione situazione collegata, per cui ci tengo a sottolinearlo. È piacevole parlare sempre solo di chi non fa le cose, mentre invece tutti gli altri lo fanno e non vengono minimamente presi in considerazione. Grazie Fabiana Dadone, vice capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera. Massimo Nicolazzi, manager, esperto di energia, autore del Prezzo del Petrolio, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Allora, l'abbiamo chiamata per avere un quadro un po' geopolitico di quello che sta succedendo intorno al prezzo del greggio. Ieri, come sappiamo, si è riunita l'OPEC, ha deciso di non tagliare la produzione, come in effetti era nelle attese, questo naturalmente su sostanzialmente decisione saudita, e le interpretazioni stanno fioccando da questo punto di vista. C'è chi dice i sauditi con i russi, no, per dare contro agli americani e allo shale oil, altri dicono che una situazione di questo genere di prezzi bassi sta fortemente danneggiando, come in effetti è dal punto di vista, da alcuni punti di vista, la stessa Russia. Lei ci riesce a dare un quadro su che partita si sta giocando in questo momento? Guardi, vorrei tenerla sui fondamentali, che alla fine sono domande offerta. Il fatto fondamentale è che viviamo una crisi da eccesso di capacità produttiva, cioè possiamo produrre più petrolio al mondo di quanto se ne consumi, e questa cosa ha una spinta al ribasso forte sulla situazione dei prezzi. La spinta al ribasso non fa felice nessuno. I russi, bene o male, hanno un budget federale che è predicato su $100 al barile, al di sotto, cioè a 71-72, parliamo di tagli nell'investimento e anche nella spesa sociale russa. La Russia ha un indice di dipendenza delle sue risorse, cioè dalla rendita mineraria, del 18,7% in termini di ricchezza nazionale, che non è uno scherzo. Quindi questa è la misura della dipendenza e questo è il senso della crisi da prezzo basso. E quindi, quando tu hai un... Scusi, prego. Sì, prego. No, e quindi da cosa può dipendere questa scelta, questa pressione saudita perché la produzione non si tagli e quindi non si spinga per l'innalzamento dei prezzi? La scelta è abbastanza semplice. La scelta è abbastanza semplice, nel senso che in una situazione di questo genere, per far ripartire i prezzi, uno ha fondamentalmente due possibilità: o c'è qualcuno che aumenta i consumi e anche la Cina sta rallentando, o c'è qualcuno che taglia la produzione. Qui l'annoio, ma devo diventare tecnico per un attimo. In un giacimento come quelli sauditi e quelli russi, il calo del prezzo non ha effetto immediato sulla capacità produttiva, perché sono giacimenti convenzionali, l'investimento è già stato fatto, puoi tagliare la produzione chiudendo un po' il rubinetto, ma con un gesto volontario. Sì. L'orizzonte americano dello shale è completamente diverso, perché ogni pozzo crea un giacimento artificiale che ha una perdita di produzione mostruosa. Lei oggi lo apre, lui produce 100 barili, tra un anno ne produce 35. Nell'orizzonte shale devo investire e perforare in continuo. In continuazione. Se non trovo da finanziarmi i pozzi, da un anno all'altro la mia produzione scende del 60%. Quindi questo... Benissimo, mi spiega brevemente, perché abbiamo ancora un minuto, l'obiettivo politico dei sauditi, vorrei capire io. L'obiettivo politico dei sauditi è semplicemente far ripartire i prezzi facendo abbassare la produzione a qualcun altro, e non importa chi sia. In questo caso il principale indiziato, per ragioni di modello produttivo, sono gli Stati Uniti. Grazie. Massimo Nicolazzi, esperto di energia, manager, autore del Prezzo del Petrolio, che ci ha aiutato a capire qualcosa di più su quello che sta avvenendo. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Un italiano di 30 anni di un gruppo di solidarietà con i palestinesi sarebbe stato ferito all'addome in maniera grave in scontri avvenuti con l'esercito israeliano in un villaggio vicino Annablus, lo riporta l'agenzia palestinese MAN. Secondo l'AIFA, ed è notizia battuta in questi istanti dalle agenzie, sono 5 le segnalazioni ufficialmente giunte per decessi sospetti di anziani dopo l'assunzione del vaccino antinfluenzale Fluad. Ne parleremo col direttore dell'agenzia del farmaco tra un attimo. Sono stanchino, dice Beppe Grillo, all'indomani delle due nuove espulsioni, sceglie 5 vice sui quali gli iscritti sono chiamati a votare. Avranno tempo fino alle 19. Nuovo picco per la disoccupazione, senza lavoro sono 3.400.000, intanto Bruxelles, come nelle attese, promuove la manovra, ma dice serve ancora un piccolo sforzo. La borsa. Diventa un Cloud Italia provider. Guadagna con il cloud anche tu, da subito. clouditalia.com. Vi presenta Borse in diretta. Milano giù di 0,5%, sia sul FTSE MIB che sul FTSE O'Share, negative anche Parigi -0,24%, Francoforte -0,32% e Londra di 0,5%. Isabella Tasso, Radio Corriere Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno. Come mai sono negative le borse? Ma le borse sono trascinate di basso dallo scivolone dei titoli del petrolio che continua all'indomani della decisione dell'OPEC di lasciare invariati i livelli di produzione. Preoccupano anche i dati sull'economia europea. A novembre nell'Eurozona l'indice dei prezzi ha registrato un risicato incremento dello 0,3% rispetto al mese prima e la disoccupazione è rimasta stabile all'11,5%. C'è anche qualche realismo al termine di una settimana che ha visto Piazza Affari guadagnare comunque quasi il 5%. Citavi i petroliferi, giù Saipem del 4,4%, Eni del 2,72% per dare la misura. Bene Telecom Italia che guadagna il 2,08%, TOZ l'1,94%, Autogrill l'1,84%, World Duty Free l'1,63%. Grazie anche per oggi Isabella, buona giornata. Buona giornata. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Notizie che ancora arrivano dalla questione vaccini. È ripresa la vaccinazione antinfluenzale in Liguria dopo che era stata sospesa in via precauzionale ieri in seguito appunto alle morti sospette in Sicilia e in Molise a causa della somministrazione del Fluad. Noi dovremmo avere in linea Luca Pani, direttore dell'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco. Pani, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie. Buongiorno. Allora, ci conferma che sono 5 al momento le morti sospette, posto che non si può ancora stabilire un collegamento diretto tra questo vaccino e le persone che hanno perso la vita? Sì, sì, sì, lo confermo, ma confermo anche che non appare nessun nesso di casualità, quindi confermo tutte e due le cose. Nessun nesso di casualità. C'è chi dice, naturalmente stanno andando avanti le indagini, sono partite. Innanzitutto quanto dureranno? Quanto ci metteremo a sapere qualcosa di più preciso? Ho sentito il commissario Ricciardi stamattina, mi ha assicurato che stanno già lavorando, quindi il più breve tempo possibile. Intanto sono arrivate già quelle preliminari dell'azienda che confermerebbero nessun difetto nella produzione e nella qualità, atteso peraltro, perché altrimenti i numeri sarebbero stati ben peggiori di questi. Quindi ritengo che l'istituto possa finire oggi venerdì, insomma una settimana, 10 giorni. Nel frattempo, come dire, è meglio non rischiare, è meglio non vaccinarsi? No, ma neanche per sogno, è meglio vaccinarsi, assolutamente, altrimenti le conseguenze di non vaccinarsi sono no, sempre peggiori. Attenzione, no, non ci siamo capiti Pani, intendo nell'attesa di avere i risultati, non sto parlando del non vaccinarsi in assoluto, per carità. No, ma questi risultati non cambieranno la bontà delle vaccinazioni e del resto dei lotti, è stato soltanto un divieto di utilizzo cautelativo su questi lotti, perché dobbiamo vedere gli accertamenti sui numeri che sono quelli che stanno emergendo in queste ore. Certo, se le segnalazioni arrivassero a centinaia su questi lotti li sequestreremo e faremo ben altri tipi di procedure, quindi al momento assolutamente vaccinarsi, la campagna non deve fermarsi. La campagna non deve fermarsi, dice lei. Queste 5 morti sospette in che zone del paese si trovano? Perché abbiamo visto che ce n'è un'altra a Lecce, probabilmente in Puglia. Lecce Prato, 2 in Sicilia, una in In Molise, se non erro. Sì, stavo pensando che adesso mentre parliamo sta arrivando una segnalazione sul Piemonte, ma dobbiamo capire che caratteristiche abbia, perché non, anche qui c'è un po' di allarmismo anche certo. Sulla rete, comprensibile, quindi adesso capisce cosa sta succedendo, è importante dirlo agli ascoltatori. Cioè, chiunque abbia un malore dopo aver fatto il vaccino, sì, naturalmente... Sì, di qualunque vaccino, e quindi diventa di qualunque tipo di loto, fluad, tra tutti, ma insomma tutti quanti, quindi adesso sarà una quantità di segnali da convalidare, da validare abbastanza importante. C'è chi dice, chi se ne occupa, qualche esperto, qualche virologo anche oggi sui quotidiani, dice c'è una possibilità, e io voglio capire se c'è una possibilità, naturalmente lo vedremo dalle indagini poi se questo è vero oppure no, che tutto questo non dipenda dal vaccino in se stesso, ma dai cosiddetti coadiuvanti, cioè le sostanze che si mettono all'interno del vaccino e che non hanno a che fare specificatamente con l'antivirale. C'è una possibilità di questo tipo, Pani, secondo lei? Ci sono alcuni di questi adiuvanti che sono messi per potenziare appunto la risposta immunogenica, come si dice, quindi la risposta degli anticorpi al vaccino, e che ovviamente producono da un punto di vista probabilistico un maggiore rischio di reazioni allergiche, ma qui in questi casi non ci sono state delle reazioni allergiche, c'è stato un evento cardiovascolare, sembrerebbe un infarto nell'immediatezza, che probabilmente appunto, come abbiamo detto, non ha non rileva. E poi degli eventi di tipo infiammatorio a livello del sistema nervoso centrale, un'encefalite e una meningite, e gli altri accertamenti sono in corso, che non avrebbero direttamente un rapporto con questo potenziale immunogenico. In altri termini, se avessimo visto una salita esponenziale di shock anafilattici, allora questa tesi sarebbe più solida. Beh, mi spiega una cosa, Pani, perché questo è importante ed è una cosa che ci aiuta a capire. In tutti questi 5 casi sospetti, le morti sono avvenute per motivazioni diverse, perché lei ci ha parlato di infarto, meningite, encefalite. Forse uno potrebbe essere una polmonite, non capiamo qual è stato l'evento finale, stiamo indagando in queste ore, quindi io sto parlando in maniera assolutamente trasparente di cose che non abbiamo ancora completamente accertato, ma è giusto che sia così, e questo è quello che stiamo accertando, però sembrano cause tutte diverse, il che, come lei immagino dove stia andando, fa supporre che appunto la relazione diretta col vaccino e con una particolare causa non ci sia, perché se ci fosse per esempio un contaminante che produce un determinato tipo di morte per un blocco respiratorio, lei avrebbe avuto 5 morti per blocco respiratorio. Fatto un esempio così banale, ma rende l'idea. Grazie a Luca Pani, direttore dell'Agenzia per il Farmaco, per questi chiarimenti. Noi chiudiamo questa parte parlando di scuola, perché la data per l'iscrizione alle superiori ancora non c'è, ma è tempo per le famiglie per pensare a quale scuola scegliere per i figli dopo le medie, cosa non facile. Ebbene, è stato realizzato un sito dalla Fondazione Agnelli, si chiama eduscopio.it, che ha analizzato i risultati al primo anno di università di 700.000 diplomati italiani. E sulla base di questo potete scegliere la scuola. Sentiamo Andrea Gavosto, direttore della Fondazione Agnelli, al microfono di Maria Piera Ceci. Eduscopio.it è un portale che serve alle famiglie come ausilio alla scelta della scuola superiore dei propri figli, e anche alle scuole, perché dà una serie di informazioni sugli esiti, diciamo, degli studenti usciti dalla scuola. In particolare, ciascuno potrà entrare su eduscopio.it, selezionare l'indirizzo scolastico a cui è interessato e il comune dove vive, e una volta definito un raggio gli compaiono tutte le scuole entro quel raggio classificate sulla base di un indice che misura la performance di tutti gli studenti di quella scuola all'università. Questo per aiutare le famiglie nella scelta della scuola superiore, perché di solito ci si basa solo sul tam tam fra famiglie. Esatto, c'è un problema storico, diciamo, nel nostro paese di assenza di informazioni che aiutino le famiglie nella scelta. Questo ovviamente non esaurisce quello che noi offriamo e cosa succede dopo la scuola, quindi all'università, e quindi è un'informazione parziale, non esaurisce tutti gli aspetti che devono essere considerati nella scelta della scuola. Ciononostante, crediamo che mettere, come dire, in chiaro questo tipo di informazione possa aiutare moltissimo le famiglie nelle loro scelte. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. È il momento di Mario Platero. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. In the interest of restoring market equilibrium, the conference decided to maintain the production level of 30 million barrels a day as was agreed in December 2011. Beh, un newscast l'avete sentito sulla decisione dell'OPEC, una decisione che è stata presa ieri, annunciata dal ministro del petrolio saudita al Naimi. Non c'è taglio della produzione di petrolio da parte del cartello dei paesi produttori e quindi si lascerà la produzione sul livello di 30 milioni di barili al giorno, che, come dire, consentirà ai prezzi del greggio e quindi al carburante che voi tutti comprerete al distributore di continuare a diminuire. Il Venezuela, l'Iran volevano una riduzione della produzione per poter consentire un rialzo dei prezzi o quantomeno per arrestare la caduta dei prezzi, però l'Arabia Saudita si è imposta, l'Iran ovviamente non soddisfatto di questa situazione. Risultato pratico: il greggio è già sceso del 6%, siamo sotto la soglia psicologica dei $70 al barile, ha toccato ieri a New York quota $69,91 al barile. Il prezzo del carburante ai distributori di benzina è ormai sceso al di sotto dei $3 per gallone, stiamo parlando meno di un dollaro al litro. Perché è caduto il prezzo del petrolio? Beh, intanto perché c'è stato un piccolo rallentamento dell'economia globale, soprattutto un rallentamento dell'economia cinese, l'economia europea che non cresce, ma anche perché gli Stati Uniti si sono portati in avanti, consentendo lo sfruttamento dello shale gas e dello shale oil attraverso la procedura del fracking, che da noi in Europa è contestata. Hanno aumentato la produzione, diventano addirittura indipendenti, autonomi dal punto di vista energetico, ma soprattutto hanno contribuito a questa diminuzione del greggio di cui noi tutti beneficiamo. Sentiamo però Jean-Claude Juncker. Today Europe is turning a page after years of fighting to restore our fiscal credibility and to promote reform. Today we are adding the third point of a virtuous circle, an ambitious yet realistic investment plan for Europe. Ecco, avete sentito il presidente europeo che spiega questo piano. La montagna ha partorito il topolino. Perché? L'Europa doveva annunciare un piano da 315 miliardi di euro in investimenti infrastrutturali, nell'educazione, nella ricerca e così via, per stimolare l'economia. Ebbene, di questi 315 miliardi di euro che in effetti sono stati annunciati, l'Europa ne mette soltanto 16. Altri 5 sono garanzie della Banca Europea per gli investimenti, totale 21 miliardi. Poi si aggiungono 63 miliardi di euro di prestiti concessi dalla BEI e arriviamo così a quota 83 miliardi di euro. Come si arriva a 315 miliardi di euro ai 63 miliardi di euro? Beh, è molto semplice, ci saranno degli investimenti privati. Questo capitale di base di 63 miliardi di euro consentirà di fare una leva ulteriore, di attirare investimenti e così via e così via. Dunque un pronostico: non ci sono i soldi sul tavolo. Il nostro ministro dell'economia Padoan naturalmente ha fatto la sua parte, ha detto che è stato un primo shock positivo. Per ora lo shock è soltanto su quanto piccolo sia questo investimento da parte dell'Unione Europea. E allora facciamo un confronto con quello che hanno fatto gli Stati Uniti. Barack Obama, appena eletto presidente americano, siamo nel 2009, fa un piano di stanziamento per 819 miliardi di dollari a fronte dei 16 miliardi stanziati dall'Europa. Facciamo questo confronto. Primo, l'America fa questa manovra nel 2009 e noi la facciamo nel 2014. 5 anni sono dovuti passare perché ci si rendesse conto che forse ci voleva un pacchetto di stimoli e di intervento da parte del governo. Dopodiché, quando lo si fa, il confronto fra l'esborso di questi 16 miliardi contro gli 819 mi lascia davvero esterrefatto. E non dimentichiamo che fin da allora gli Stati Uniti hanno avviato la manovra espansiva da parte della Federal Reserve. E per questa ragione gli Stati Uniti continuano a crescere e noi no. But the GDP also revealed that in the last few months the economy has done measurably better than we had thought. Ecco, avete sentito il presidente americano che commenta la revisione del prodotto interno lordo per il terzo trimestre. Era cresciuto quando abbiamo avuto la prima stima del 3,5% ed è stato corretto addirittura al 3,9%. Ma crescere a un ritmo del 3,9% dovrebbe insegnarci una lezione. Nel secondo trimestre il prodotto interno lordo americano era cresciuto del 4,6%, dopo la contrazione del 2,1 nel primo trimestre dovuta al freddo. Ma voglio entrare più nel dettaglio, proprio per rispondere a coloro che continuano a esprimere dubbi, perché questa crescita americana in realtà poggia su fondamenta molto solide. La crescita media degli ultimi due trimestri è stata del 4,2% e il semestre migliore dalla metà del 2003. Ecco perché sono entrato così nel dettaglio. Ma insomma, per darvi un quadro di come in questo dibattito europeo che continua a girare a vuoto attorno alle preoccupazioni della Germania su possibili ritorni inflazionistici da una parte o debitori o di aumento del disavanzo pubblico dall'altra, è un dibattito che continua a frenare poi quelli che sono i potenziali di crescita dell'Europa. L'America ha applicato una politica di deficit spending classica, ha messo sul tavolo 819 miliardi di dollari contro i 21 messi dall'Europa. Ecco, fino a quando avremo questa differenza in termini di coraggio, di volontà, di impegno per la crescita? Beh, io credo che il nostro vecchio continente continuerà ad essere vecchio e purtroppo parecchio fermo. Ci sarebbero meglio altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com, su Twitter, @ Mario Platero. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going. America 24. Ed è tutto per Effetto Giorno. I ringraziamenti Gianmarco Ferronato in regia, Laura Faggini in assistenza in redazione, tutta la redazione di Radio 24 come sempre, Effetto Giorno @radio24.it per scriverci, la nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno. La trasmissione torna come sempre lunedì alle 13 e come sempre noi ci risentiamo tra un attimo con GR24. Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti.